giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Fotovoltaico, c'è la legge per erogare 100 milioni di fondi, approvata anche FVG Green, legge quadro per la transizione ecologica. L'8% del territorio del Friuli Venezia Giulia è occupato dal cemento, il consumo del suolo è più alto rispetto alla media nazionale, il punto in un convegno. Chiamate al 112, non hanno oltre 600.000 gli operatori del numero unico, l'aggressività allunga i tempi di risposta. Lavoro, ambiente, salute, punti deboli della politica regionale per il congresso CGIL, sindacato pronto ad un percorso di mobilitazione. Problema sovraffollamento, gestione del disagio mentale, nessuno tocchi Caino in visita al carcere del Coroneo di Trieste. Più controlli a Pordenone per prevenire le violenze delle bande di minori, ultimo caso, due giovanissimi fidanzati aggrediti. Pregate per me per la mia nuova chiesa di Trieste, le prime parole da vescovo di Don Enrico Trevisi, il saluto di Crepaldi alla città. 7:19 di venerdì 3 febbraio, buongiorno da Anna Vitaliani e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo, il cielo è poco nuvoloso sui monti e in pianura, variabile sulla costa. Le temperature registrate alle 6 a Trieste 5 gradi e 5 decimi, a Gorizia 0 gradi, a Pordenone meno 1 grado, a Udine meno 1 grado e mezzo, sul Piancavallo 2 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 0, a Tolmezzo meno 1 grado e 5 decimi, a Sappada meno 3 gradi, a Tarvisio meno 4, sul Monte Zoncolan meno 1 grado, su Lussari meno 1 e mezzo, a Lignano 5 gradi e 5 decimi, a Grado 4. Le previsioni dell'ARPA: oggi il cielo sarà in genere poco nuvoloso con maggiori annuvolamenti sulle Alpi al mattino e poi di nuovo in serata, quando sarà possibile nevischio, qualche debole precipitazione in prossimità del confine con l'Austria. Su pianura e costa foschie e nebbie in diradamento di giorno, ma che in pianura di notte potranno favorire locali formazioni di ghiaccio al suolo. Dal tardo pomeriggio sera in quota vento sostenuto da nord-ovest in intensificazione di notte con raffiche anche forti. Subito una notizia sulla circolazione ferroviaria, treni fermi sulla tratta Udine-Venezia all'altezza di Codroipo a causa dell'investimento di una persona, il fatto è accaduto alle 5:30 di questa mattina, ancora non si sa che ora riprenderà la circolazione regolare. FVG Green, legge quadro per la transizione energetica e la sostenibilità, è stata approvata dal Consiglio regionale negli ultimi scorci di questa legislatura, ma il provvedimento continua a dividere maggioranza e opposizione. Via libera definitiva la legge che norma l'erogazione dei contributi per il fotovoltaico per case e condomini. 100 milioni che serviranno a rimborsare le spese per pannelli, accumulatori e solare termico fino al 40%. Approvata anche FVG Green, una legge quadro che detta le linee guida per favorire la transizione ecologica. L'opposizione la valuta negativamente e attacca, definendoli negazionisti, quelli che nel centrodestra hanno messo in dubbio il ruolo delle attività umane nel cambiamento climatico. Claudio Giacomelli, Fratelli d'Italia. Il centrodestra chiede un'impresa ecosostenibile, ma chiede anche un ambientalismo sostenibile e non un ambientalismo apocalittico fatto di slogan. Intanto i partiti si avviano a chiudere le liste elettorali per il voto di aprile. Il Movimento 5 Stelle ha iniziato a raccogliere le adesioni di chi vuole candidarsi. Mauro Capozzella, Movimento 5 Stelle. Chiunque iscritto al Movimento 5 Stelle potrà proporre la propria autocandidatura per le regionali del 2023, che verrà poi votata in seguito da tutti gli iscritti del Movimento 5 Stelle. La seduta in consiglio si era aperta con un messaggio della senatrice Liliana Segre in occasione della commemorazione per il giorno del ricordo del 27 gennaio. Segre ha ricordato quando venne a Trieste nel 2008 per ricevere la laurea honoris causa, il suo viaggio in incluse la visita alla foiba di Basovizza perché, scrive, per me la condanna senza requie di nazismo e fascismo non va mai disgiunta dalla coltivazione di una memoria critica di tutti gli orrori del Novecento. Parole che arrivano alla vigilia della giornata del ricordo del 10 febbraio che commemora i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Misurare il consumo di suolo per uno sviluppo oltre la crescita è il tema che sarà affrontato questo pomeriggio alle 15.30 a Palazzo Antonini nell'incontro organizzato dai geografi dell'Università di Udine. Interverranno Silvio Cristiano dell'Università IUAV di Venezia ed Elisabetta Peccol, ricercatrice dell'Ateneo Friulano, moderati da Federico Venturini, a sua volta ricercatore a Udine, che abbiamo raggiunto al telefono. E allora partiamo dai dati. La nostra regione ha ormai consumato l'8% della propria superficie. Questa percentuale è alta o no rispetto al resto d'Italia? Mediamente il consumo di suolo a livello italiano si attesta al 7%, quindi la nostra regione è sopra la media nazionale. Eppure abbiamo tanta montagna, questo in qualche modo non aiuta? È chiaro che in montagna il suolo è meno consumato da attività antropiche. Sì, assolutamente. Tutta la zona della montagna ha un consumo di suolo piuttosto basso e quindi questo va a compensare invece tutte quelle zone della pianura, della piedemontana, delle zone delle colline, dove invece il consumo di suolo è molto molto elevato. Qual è la provincia dove c'è tanto suolo consumato? Beh, ad esempio vorrei citare tre comuni. Uno è quello di Monfalcone, che il consumo di suolo si attesta al 46%, il comune di Udine, che siamo sopra il 42%, e Pordenone con il 40%, quindi si tratta di percentuali molto elevate. Si può crescere, si può migliorare come regione anche senza consumare nuovo suolo? Questa è una delle sfide che abbiamo di fronte. A livello internazionale, europeo, ma anche nazionale, si parla molto di transizione ecologica e questo elemento del consumo di suolo rientra anche in questo aspetto. Dobbiamo cercare di ripensare i nostri insediamenti, le nostre città, i nostri insediamenti produttivi, anche la mobilità, cercando di consumare il suolo il meno possibile, in quanto è un bene per definizione finito e contemporaneamente serve alla natura per potersi sviluppare. Alleanza Verdi Sinistra ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro dell'Ambiente sul progetto di costruzione di 4 nuove centraline a metano in Friuli Venezia Giulia lungo l'oleodotto Siot Tal. Secondo i segretari nazionali Nicola Frattoianni ed Eleonora Evi, la giunta del Friuli Venezia Giulia non ha ascoltato i cittadini riuniti in comitati da Paluzza a San Dorligo, ha ignorato le relazioni tecniche indipendenti che prevedono l'aumento del consumo di metano di oltre il 6% in regione solo grazie a questo progetto che inoltre, continua la nota, è stato approvato senza procedure di impatto ambientali, come sottolineato anche da Legambiente. L'autorità di sistema portuale di Trieste esclude categoricamente che il porto di Monfalcone stia movimentando materiale bellico. La smentita dello stesso presidente dell'autorità Zeno D'Agostino arriva dopo l'indiscrezione divulgata dal sindacato USB, che aveva dichiarato con una nota stampa di avere delle informazioni certe di passaggio di mezzi offensivi tipo obici dal porto di Monfalcone con destinazione ignota. Il sindacato si era anche detto pronto ad uno sciopero permanente delle movimentazioni di eventuale materiale bellico. Ad escludere la presenza di mezzi armati è anche Sasha Chulev, segretario regionale FILT CGL di trasporti, da noi contattato, che ci ha spiegato che il porto di Monfalcone non è abilitato a far entrare armi ed esplosivi, poiché se lo facesse violerebbe una legge dello Stato. Il porto infatti non è di classe 1, quindi non può trattare armi ed esplosivi. Chulev racconta che nel 2019 ci fu uno scontro tra sindacati e prefettura proprio a causa di una nave entrata in porto con materiale bellico. Da allora la situazione viene costantemente monitorata da prefettura, autorità portuale e sindacati stessi. Il personale dell'esercito, che è stato probabilmente visto transitare a Monfalcone in questi giorni, conclude Chulev, è destinato a fare un'esercitazione di mezzi militari disarmati in Sardegna. Da più parti è montata la polemica, non solo politica, in merito alla prontezza della macchina dei soccorsi coordinati dalla SORES 112. Siamo andati a vedere come funziona la centrale operativa di Palmanova e quali sono anche le conseguenze delle polemiche. Come sottolinea subito in questo servizio una delle operatrici, Valentina Amati, sentiamo. Il clima di sfiducia provoca l'aggressività, provoca un allungamento nei tempi di risposta e nel soccorso, perché sono troppo impegnata a dover capire tra un insulto e l'altro qual è l'emergenza e quindi perdo del tempo prezioso. Al numero unico d'emergenza, il 112, rispondono infermieri professionisti che nel 2022, indirizzando alla SORES il 30% di oltre 643.000 chiamate, hanno permesso l'attivazione di oltre 137.000 mezzi di intervento. Filtraggio e tempi di attivazione sono la risposta del sistema. Federico Nadalin, coordinatore SORES. L'attivazione è stato visto, parlando del 2022, quindi l'anno appena concluso, è stato nel 25% dei casi entro i 59 secondi. Se allarghiamo questa forbice, la portiamo a minuto e 59 secondi, quindi entro i 2 minuti, arriviamo a 3/4 degli interventi. In regione le ambulanze attive di giorno, monitorate dalla centrale in tempo reale, sono 51, oltre a 6 automediche e un elicottero. La notte le ambulanze a disposizione sono 35. Fondamentale da parte del chiamante la fiducia e fornire le indicazioni su cosa sia successo insieme all'età del paziente e la posizione dell'emergenza. Amato De Monte, direttore SORES. Per migliorare la fiducia bisogna aumentare la conoscenza, bisogna conoscere e descrivere come funziona il sistema. Questo è un compito che spetta sicuramente a noi e su questo noi vogliamo muoverci. Palmanova, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si è aperto in corte d'assise a Udine il processo per il femminicidio di Elisabetta Molaro. L'imputato è il marito Paolo Castellani, reo confesso dell'assassinio della moglie quarantenne, presente ieri in aula, uccisa lo scorso 15 giugno con oltre 70 coltellate. Ieri la costituzione delle parti civile, prossima udienza il 2 marzo per ascoltare i teste ammessi, tra cui la madre della donna, rappresentata dall'avvocato Federica Tosel, anche nella veste di curatrice speciale delle nipoti minori. Respinta la costituzione di parte civile dell'associazione I Nostri Diritti, già il giorno successivo, il 3 marzo, è fissata la discussione. Secondo le ricostruzioni, l'uomo che ha confessato il delitto ha ucciso la moglie Elisabetta con 72 coltellate. Lei era da poco rientrata da una serata trascorsa con delle amiche ed era andata a dormire in una camera diversa da quella usata dal marito. Castellani era stato ritrovato poche ore dopo nei campi di Codroipo, a distanza di circa 4 chilometri dall'abitazione della coppia. L'arma del delitto, un coltello da cucina, era stata recuperata poco lontano. Nella stanza accanto a quella del delitto dormivano le due bambine, figlie della coppia. Il nodo sicurezza Pordenone, non solo nel cosiddetto Bronx. Un gruppo di ragazzi, in gran parte minorenni, si è reso responsabile di alcuni atti di violenza nell'ultimo periodo e la questura sta mettendo in atto misure di prevenzione. L'ultimo caso in ordine di tempo, il pestaggio di un 17enne mentre passeggiava con la fidanzata in centro. L'area compresa tra via Mazzini, la stazione e il Bronx a Pordenone è diventata il ritrovo di un gruppo di ragazzi, una decina, con la presenza di due capi, giovani, gran parte minorenni, che non lavorano e non vanno a scuola, dediti a consumo di alcol e stupefacenti, piccoli vandalismi e provocazioni tra coetanei che a volte sfociano in azioni violente. Il questore di Pordenone, Luca Carocci. Sono ragazzi che vivono appunto una condizione che non li vede impegnati né a scuola né nel mondo del lavoro, che spesso si radunano e attuano questa azione di prevaricazione anche violenta nei confronti dei loro coetanei. C'è un'attività di indagine su quest'ultimo episodio da parte della squadra mobile e sembra che le prime risultanze siano a confermare che gli autori dell'aggressione siano anch'essi minorenni. Per prevenire gli episodi di violenza saranno attivati più controlli, assicura il questore, ma anche un progetto di rete tra forze di polizia e comune volto a contrastare il disagio giovanile. Attiveremo un'intensificazione dei controlli sul territorio con le altre forze dell'ordine e con la polizia locale di Pordenone e accanto a questa azione di prevenzione da parte nostra si accompagna anche un progetto del Comune, che è il Centro Giovanile Diffuso. Abbiamo questa azione congiunta con il Comune che speriamo dia presto i suoi frutti. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Sovraffollamento delle celle, una struttura detentiva troppo vecchia e le tante fragilità umane di chi è recluso dalla tossicodipendenza alla salute mentale sono alcune delle problematiche del carcere del Coroneo di Trieste. Lo chiamano viaggio della speranza, ma è soprattutto una traversata nelle difficoltà quotidiane dei detenuti. È la serie di visite che l'associazione Nessuno Tocchi Caino ha intrapreso nelle carceri della regione, insieme ai rappresentanti delle camere penali. Dopo Pordenone si sono recati nel penitenziario di Trieste, una struttura in cui emergono criticità croniche come il sovraffollamento, con 185 detenuti su 151 posti regolamentari, o il problema della salute mentale, ma non solo. Elisabetta Zamparutti, Nessuno Tocchi Caino. Problema anche della tossicodipendenza in una struttura che materialmente è decrepita, è molto critica, nonostante la dedizione anche del direttore, del dottor Puglia. Nell'istituto hanno trovato, dicono, fragilità umane di cui ci si dovrebbe occupare con mezzi diversi, anche in vista del rientro dei detenuti nella società civile, un percorso fatto anche di permessi che spesso è difficile ottenere. Sabina Della Putta, presidente delle Camere Penali di Trieste. Noi abbiamo una magistratura di sorveglianza che fa capo, che si occupa dell'intero distretto, quindi i tribunali di Udine, Pordenone, Gorizia fanno capo a Trieste, che ha una giurisprudenza molto rigida, è una delle più rigorose d'Italia e quindi c'è una certa difficoltà proprio nella concessione di permessi, la possibilità di rivedere i familiari. Qui è più rigido che altrove. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Con i droni contro il caporalato, la Guardia di Finanza di Pordenone individua due imprenditori, un italiano e un albanese, e sospende due aziende agricole per l'impiego di sei braccianti stranieri completamente in nero individuati nelle campagne di Vivaro. Alle dipendenze dell'imprenditore straniero i militari del gruppo di Pordenone della tenenza di Spilimbergo, coadiuvati da una unità drone della Guardia di Finanza di Tolmezzo, hanno individuato tre albanesi, uno privo del permesso di soggiorno e due invece muniti del solo visto turistico che non consente di svolgere attività lavorativa. L'imprenditore albanese era peraltro stato tratto in arresto pochi giorni fa per il possesso di un documento di identità contraffatto. Anche i lavoratori addetti nell'azienda agricola italiana erano muniti di solo visto turistico. L'imprenditore è stato denunciato. Lavoro, ambiente e tutela della salute, i nodi su cui il congresso della CGL Friuli Venezia Giulia a Tricesimo ha focalizzato le sue critiche alla politica regionale e il sindacato ha ribadito di essere pronto ad un percorso di mobilitazione. Una situazione più critica nell'area triestina, con più crisi in atto e 1500 posti di lavoro a rischio, è un mercato del lavoro che nel resto della regione tiene, ma naviga a vista. Questo è lo scenario tratteggiato dalla CGL in congresso regionale a Tricesimo, dal quale usciranno i nuovi direttivo, assemblea e segretario. Preoccupano i primi sintomi di flessione, ha detto l'attuale segretario generale William Pezzetta nella sua relazione, come mostra l'accelerata della cassa integrazione nel secondo semestre 2022. Un dato, le oltre 11 milioni di ore autorizzate, che non riesce a scendere sotto i livelli pre-Covid del biennio 2018-2019, quando la media annuale si attestava intorno alle 5 milioni di ore. Da un sondaggio IRES svolto tra gli iscritti in regione emergono tre principali preoccupazioni. Soprattutto la preoccupazione per un mondo del lavoro frastagliato, il tema ambientale e il tema sanitario. Proprio alla gestione della sanità in Friuli Venezia Giulia sono andate le critiche più dure. Alla Giunta si chiedono anche veri tavoli di confronto sul PNRR. A livello nazionale il sindacato sottolinea una certa difficoltà e asprezza nei colloqui con il governo. Siamo all'inizio di un percorso di mobilitazione, ha ribadito Pezzetta. Ci sono tutta una serie di temi che noi abbiamo posto, dal lavoro al salario, alla precarietà, che non troviamo dentro questo governo e sul quale ovviamente metteremo in campo tutta la nostra forza per riportarli al centro della discussione. Tricesimo, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel 2022 la produzione del consorzio del prosciutto di San Daniele è cresciuta di 1,5 punti, le vendite sono stabili e sono legate alla contingenza differente del 2022 sul 2021, anno del post-Covid, in cui sono stati fatti consumi esuberanti rispetto all'anno del lockdown. Lo ha reso noto il direttore generale del consorzio, Mario Emilio Chicetti, parlando dell'andamento del 2022 a margine di un incontro a Trieste. Il 2022, ha spiegato, è tornato a livelli pandemici sui dati del 2018 e 2019, un risultato positivo pur se un po' inferiore rispetto al 2021. L'export è stabile nonostante la diffusione di malattie infettive suine in Italia che hanno bloccato l'export verso alcuni mercati extraeuropei come Cina e Giappone. Sul 2023, secondo il consorzio, gravano incertezze sui costi delle materie prime. La parte cruciale dell'anno saranno i primi 4-6 mesi. Apertura straordinaria all'ufficio passaporti della Questura di Pordenone per far fronte alle numerose richieste e accorciare i lunghi tempi d'attesa per il rilascio dei documenti. Solo nella giornata di mercoledì sono state esaminate 170 richieste, così si sono liberate diverse disponibilità nell'agenda online per fissare un appuntamento. Ieri si trovava posto anche nel mese di febbraio. L'apertura straordinaria dell'ufficio prosegue anche oggi dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 per i cittadini che hanno già un appuntamento mediante prenotazione sul portale dedicato e con necessità di anticipare la data del rilascio. Eventuali richieste per il rilascio urgente del passaporto per coloro che non hanno l'appuntamento e che abbiano necessità di intraprendere un viaggio per motivi urgenti potranno essere presentate direttamente allo sportello nelle prossime settimane. Sono previste ulteriori aperture straordinarie. Politica ieri e oggi, due testimonianze a confronto, è il titolo dell'incontro organizzato dall'Associazione Culturale Libertà Territorio Solidarietà per la seconda edizione di Appuntamento con la Politica per una corretta informazione, rassegna promossa dall'Associazione Leali delle Notizie di Ronchi dei Legionari. Alle 20.30 l'Auditorium Casa della Cultura, protagonisti Gianfranco Carbone, già presidente della provincia di Trieste e vicepresidente della Giunta regionale, e Mario Brancati, esponente della DC Isontina, già assessore regionale alla Sanità, attualmente presidente dell'ANFAS di Gorizia e della Consulta regionale Associazioni Persone con Disabilità. Si chiama Enrico Trevisi ed è lombardo, il nuovo vescovo di Trieste nominato dal Vaticano. Prima di prendere la guida della diocesi riceverà la consacrazione episcopale, succederà a Monsignor Crepaldi che si ritira per raggiunti limiti di età. Dopo 14 anni di servizio, Giampaolo Crepaldi lascia l'incarico di arcivescovo di Trieste per anzianità. Una straordinaria esperienza, devo dire, di relazioni, di vicende condivise con tante persone, alcuni in difficoltà. Trieste mi è entrata nel cuore. Papa Francesco ha nominato Don Enrico Trevisi nuovo vescovo di Trieste. Tre aspetti: educatore, insegnante e parroco. Quindi mi pare che siano tre dati che vanno a identificare il profilo del nuovo vescovo Enrico. È professore di teologia, è stato per 12 anni rettore del seminario di Cremona e poi dal 2016 parroco della città e coordinatore della pastorale familiare. Nei primi anni 2000 era assistente spirituale delle ACLI, le associazioni cristiane dei lavoratori italiani, e responsabile dell'ufficio pastorale sociale e del lavoro. Don Enrico ha annunciato così la sua nomina in conferenza stampa a Cremona. Chiedo di pregare per me, per la mia nuova chiesa di Trieste, che già amo come chiesa con la quale camminerò, a Dio piacendo, per il resto della mia vita. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Istituto Comprensivo di Pozzuolo del Friuli è stato intitolato a Don Pierluigi di Piazza, prete di strada, sempre vicino agli ultimi e fondatore del Centro Balducci di Zugliano. Don di Piazza è scomparso nel maggio dello scorso anno. L'intitolazione è avvenuta con decreto del Ministero dell'Istruzione. Si tiene questo pomeriggio a Grado la sfilata delle diversità organizzata dal servizio socioassistenziale del comune, partenza alle 17 da piazza Biagio Marin, una lunga corda sulla quale saranno appesi i calzini colorati portati dai partecipanti farà da coesione al corteo. L'iniziativa è rivolta in modo particolare ai disturbi dello spettro autistico ed intende sensibilizzare all'inclusione e alla diversità. Il matematico senegalese Mohamed Mustafa Fall ha vinto il premio Ramanujan per giovani matematici dei paesi in via di sviluppo. Il premio è conferito dall'ICTP di Trieste, il centro di fisica teorica. Fall è il secondo africano a vincere dopo il gabonese Philibert Nang più di un decennio fa, sottolinea il quotidiano Le Soleil. Il professore ha ricevuto il premio per il suo eccezionale lavoro nella teoria delle equazioni alle derivate parziali. Giuliano Polo è stato riconfermato nel ruolo di sovrintendente del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste dal sindaco di Trieste e presidente della Fondazione Roberto Di Piazza e dal ministro della Cultura Gennaro San Giuliano. Triestino, classe 57, con un passato di docente al Conservatorio Tartini e di professore dell'orchestra della Fondazione, manager culturale e musicale in alcune delle istituzioni più importanti del paese, Polo consoliderà le iniziative impostate durante il primo anno di mandato con l'obiettivo, ha spiegato, di portare sempre di più il teatro al centro della vita cittadina e regionale, all'attenzione dell'ampio palco internazionale a cui Trieste è naturalmente vocata dalla sua posizione geografica. Parte dal Teatro Verdi di Pordenone questa sera alle 20.30 in esclusiva per la nostra regione la tournée nazionale del nuovo spettacolo diretto e interpretato dall'attore, regista e mattatore Massimo Popolizio, che firma e interpreta Uno sguardo dal ponte, celeberrimo capolavoro di Arthur Miller, qui proposto nella traduzione di Masolino D'Amico, una fotografia cruda e drammatica di una delle mille facce della New York anni 50. Il testo ancora oggi concentra una serie di temi scottanti e attuali: la fuga dalla povertà, le tensioni dell'immigrazione clandestina, la caccia allo straniero e gli affetti morbosi che possono dilaniare una famiglia. Sono nata e cresciuta dentro un Luna Park, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l'ho dato dietro al brucomela, poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate, adesso sono ovunque, le attrazioni sono io e siete voi. Così parla Virginia Raffaele, attrice, doppiatrice, imitatrice, conduttrice televisiva e radiofonica, amatissima, protagonista di Samusa, spettacolo teatrale al quale ha collaborato nella scrittura in scena questa sera al Giovanni da Udine e anche in scena fino a domenica. Virginia Raffaele ritorna al suo primo amore, il teatro, con uno spettacolo che si nutre dei suoi ricordi e del suo mondo fantastico. Ora lo sport, gli sport invernali. La sappadina Lisa Vittozzi è l'unica atleta del Friuli Venezia Giulia convocata per i mondiali di biathlon di Oberhof in Germania dall'8 al 19 febbraio. Appena archiviato EIOF, Olimpiadi Invernali Under 18, altri giovanissimi atleti scaldano i muscoli ora per la 39esima edizione del trofeo Biberon Energia Pura Kids Series, l'evento internazionale degli sport invernali dedicati ai giovanissimi dai 6 ai 12 anni, organizzata dallo Sci Club 70 di Trieste. La kermesse sportiva si tiene da oggi fino a domenica a Forni di Sopra e vedrà la partecipazione di centinaia di giovanissimi atleti dall'Italia e dall'estero cimentarsi nelle prove di sci alpino e di sci nordico, il tutto sulla pista simbolo del Biberon, ovvero Cimacuta. Sono le 7.46 in punto, uno sguardo ai giornali in edicola. Iniziamo con il Piccolo di Trieste, che apre con la nomina di Don Trevisi, nuovo vescovo di Trieste e parroco a Cremona, arriverà tra 2 o 3 mesi. Crepaldi dice: sono stati 13 anni molto belli. E poi la conferma del soprintendente Giuliano Polo alla guida del Teatro Verdi, sindacati soddisfatti. Dalla prima la notizia anziani morti, oggi la sentenza per il medico del 118 Vincenzo Campanile, accusato di 9 omicidi di falso in atto pubblico. Il PM ha chiesto 25 anni e 6 mesi di carcere. E poi sempre con richiamo in prima pagina si parla di Modiano, che investe 4,5 milioni di euro ed entra nel salotto dei marchi storici. La notizia apre le pagine dell'economia. Da inizio Novecento, nome storico delle carte da gioco. Infine la fotonotizia di centropagina, la città dark dei fumetti Panini, la graphic novel, il graphic novel ambientato a Trieste. Nelle pagine interne l'agroalimentare che traina economia e turismo. Nelle pagine della cultura segnaliamo l'intervista alla monfalconese Sciari la prossima settimana sul palco di Sanremo, titolo del suo brano L'egoista. Nella serata dei duetti con Salmo, la cantante proporrà un medley di Zucchero. Per le pagine dello sport, il ritiro della tuffatrice Noemi Batchi. A 35 anni è venuto il momento di voltare pagina, dice la campionessa, con 9 medaglie agli europei e la partecipazione a 4 Olimpiadi. Le 700.000 chiamate al 112 in 2 minuti, via al soccorso, è il titolo di apertura scelto dal Messaggero Veneto di Udine, che nella fotonotizia ha 4 immagini dei test fisici a cui sono stati sottoposti ieri 89 aspiranti vigili urbani. Le prove al campo di atletica dal Dan di Udine in 23 si sono dovuti fermare. Nei prossimi giorni prove scritte e orali per gli 8 posti a disposizione. Il tema apre con un ampio reportage la cronaca cittadina. Di spalla in prima l'assessore Ciani: si nasce maschi o femmine e si resta sempre così. Le dichiarazioni alla presentazione ieri del lampione che in centro città si accenderà di rosa o di azzurro ad ogni nuova nascita all'ospedale di Udine, un'idea ispirata ad una simile iniziativa a Bologna. Sotto il processo per l'assassinio di Elisabetta Molaro, uccisa dal marito, sentenza tra un mese. E ancora, personale della sanità, dopo 10 anni sbloccati i fondi per gli aumenti, accordo per 1.500 lavoratori dell'azienda sanitaria Friuli Centrale. In taglio alto l'agroalimentare, che fattura 3 miliardi 900 milioni, San Daniele Montasio trainanti, accanto la legge FVG Green, 100 milioni per il fotovoltaico. Sul Gazzettino, uxoricida in aula con la fede al dito, Paolo Castellani a giugno, uccise la moglie. La madre della vittima si dice spiacevolmente stupita. Nella fotonotizia il prefetto: più agenti in ospedale per salvaguardare l'incolumità dei medici. Di spalla ancora sanità, con l'appello degli addetti SORES: dateci una mano per aiutarvi meglio sotto il conflitto tra sindacato SNAMI e azienda sanitaria sul servizio sanitario post USCA. Il Piccolo Edizione di Gorizia nella sua prima pagina offre notizie diverse rispetto all'edizione triestina e apre la prima con Gorizia 2025. La bisiaccaria si prepara, ieri l'incontro degli 8 comuni, mettiamo la nostra capacità di fare rete. La sindaca di Monfalcone Cisinta dice riunione importante ma tardiva. E poi la vaccinazione anti-Covid al via nelle farmacie comunali a Gorizia, siamo gli apripista, dal prossimo giovedì al via il servizio. Con richiamo in prima ad aprire la pagina di Monfalcone Falcone, la carenza di medici di base, residenti di Panzano disorientati perché il medico c'è ma riceve ad Aris. E poi la smentita di D'Agostino sulla presunta movimentazione di materiale bellico dal porto di Monfalcone. Si tratta di mezzi disarmati, ha dichiarato, come avete sentito poco fa, il capo dell'autorità portuale, destinati ad un'esercitazione in Sardegna. È aberrante, dice, che ci si debba preoccupare di un traffico di assoluta routine per lo scalo monfalconese. In 100.000 non arriva. Arrivano a fine mese, titola in apertura il Gazzettino di Pordenone. Sono anche lavoratori con uno stipendio fisso che supera di poco i 1.100 euro, lo studio della CGIL. Nella fotonotizia il drone scova i lavoratori irregolari nelle campagne di Vivaro, ne abbiamo dato notizia. Anche qui un titolo per il processo a Udine per l'assassinio di Elisabetta Molaro. Di spalla Sacile torna la luce sulle strade dopo il taglio per le bollette. Sotto a San Vito, pasti freddi alla mensa, scoppia il caso delle elementari. In taglio basso il presidente Nero Verde Lovisa, che dice questo Pordenone può andare lontano. Si cercano medici a gettone, l'apertura del Messaggero Veneto di Pordenone, sarà bandito un concorso, contratto annuale per 60 euro l'ora. Di spalla, anno difficile per i conti Electrolux, perdita di 169 milioni. Sotto le pellicole antismog sui bus, efficaci al 95%. 1900 la membrana chimica è stata brevettata da una società di Polcenigo e ora si studia l'applicazione a scuole e uffici. E ancora nuova multa agli alpini, conto di 7.500 euro per la colonia Tallon. Il demanio vuole i soldi per l'occupazione della vecchia sede di Sacile, ma per quella nuova mancano ancora 200.000 euro. Gli spettacoli al Teatro Bratusch di Gorizia si terrà alle 20.30 in collaborazione con il Conservatorio Statale Tartini di Trieste, il concerto della 43esima stagione concertistica Elena Lipitzer dal titolo La Via della Speranza. E questa sera al Teatro Zancanaro di Sacile Il Marito Invisibile di Edoardo Erba con Maria Amelia Monti e Marina Massironi. Celebrazioni per San Biagio a Udine, messe benedizioni nella gola in Duomo e nella chiesa di San Giacomo. In Duomo sarà anche l'occasione per visitare anche le sale superiori del museo, che negli ultimi due anni sono state chiuse al pubblico, con la collezione integrata con opere frutto di restauri, donazioni e anche rinnovamenti dell'esposizione. Tra queste le opere della donazione di Monsignor Luciano Nobile, che saranno presentate alle 11 dal professore Gilberto Ganzer, che l'arciprete della cattedrale ha voluto offrire in esposizione. I dipinti risalgono al 600 e sono attribuiti ad artisti nell'ambito emiliano e veneto. Seguirà alle 17 la visita guidata alle opere che hanno come tema San Biagio e quelle restaurate. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 circa il consueto appuntamento con Vueo Fevelin D, che parlerà di come vaccinarsi in farmacia contro Covid e influenza. Alle 11.20 un tranquillo weekend da paura. I programmi regionali torneranno poi alle 13.29. Ed è tutto per questa prima edizione del giornale radio regionale, in regia Federico Comar ed Eugenio Giuffrida, in redazione ha collaborato Manuel Bussani. Da Anna Vitaliani e Rita Micoli grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.